2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 21 giugno 2014, primo giorno d'estate. Inauguriamo l'estate con una nuova puntata di 2024. Benvenuti o bentornati se siete nostri fedeli e frequenti ascoltatori anche via podcast. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci sono altre modalità per contattarci anche via Twitter e anche via Facebook. Su Twitter cercate chiocciolina e underscore Pagliarini e potete mettervi in contatto. Naturalmente, se il vostro messaggio supera alcune considerazioni molto veloci, utilizzate la posta elettronica che è meglio. Oggi parleremo, tra le altre cose, di Deep Web, il lato oscuro della rete internet. Che cos'è? Lo scopriremo tra poco. La prima notizia riguarda un provvedimento firmato dal ministro della cultura Franceschini. Dopo mesi di polemiche, il ministro ha ceduto ad una parte, soprattutto ad una parte, ascoltando ben poco la parte che invece contestava i possibili aumenti dei prezzi di smartphone e tablet. Allora partiamo proprio da qui. Smartphone e tablet in modo particolare potrebbero presto costare di più a causa dell'aggiornamento del compenso per copia privata. Si tratta, ne abbiamo parlato più volte, di una quota di denaro raccolta dalla SIAE che va a compensare autori ed editori per le canzoni o altri contenuti acquistati legalmente. Quindi stiamo parlando di cose acquistate legalmente e non di pirateria, che poi uno potrebbe copiare sul telefonino. Se uno non lo fa, paga lo stesso. Quindi la ratio di questo provvedimento, che è stato aggiornato dalla firma di Franceschini di questo venerdì, quando quasi tutti erano distratti dalla partita dell'Italia, la ratio è, visto che tu, dopo che hai acquistato un contenuto, potresti poi copiarlo, non ho detto che tu lo faccia, ma potresti copiarlo, compensare del mancato introito degli autori, invece di comprare due canzoni tu ti fai la copia, c'è questo compenso per copia privata. Allora, gli aumenti superano in alcuni casi il 400% e vanno da un minimo di 3 euro per dispositivi fino a 8 GB di memoria ad un massimo di 4,8 euro oltre i 32 giga. Si pagano 5,2 euro per i computer. Allora, su questi aumenti però mancano molti dettagli, perché c'è stato un comunicato del Ministero con alcune cifre, non una tabella precisa, puntuale, quindi noi la chiederemo. Naturalmente non c'è stato il tempo tecnico, in realtà abbiamo telefonato al Ministero ma non ci ha risposto nessuno, quindi vedremo poi di recuperare questa tabella, che spero poi alcuni altri colleghi pubblicheranno nella prossima settimana per analizzare per bene quali saranno gli aumenti. Allora, è vero che questi aumenti non sono automatici. Il ministro Franceschini, che ha firmato il decreto, specifica che non si tratta di una tassa, cioè tecnicamente non è una tassa, però naturalmente è percepita come tale. Franceschini dice anche che non saranno i consumatori a pagare, ma su questo punto molte aziende che abbiamo contattato anche nei mesi precedenti hanno riferito a Radio 24 che il maggior costo che dovranno pagare appunto alla SIAE verrà ribaltato sui consumatori. Naturalmente parliamo non solo di smartphone e tablet, di computer, parliamo di memorie in generale, perché è su quello che poi uno va a copiare la canzone. È comprensibile che su uno smartphone da 100 euro, da 150 euro, dove i margini dei produttori sono ormai bassissimi, è impensabile che si accollino 4 euro di tassa, cioè è vero che non è una tassa, insomma, di questo compenso che quindi non venga messo a listino. Vedremo poi il mercato come reagirà. Naturalmente ci sono le reazioni più diverse. Soddisfatta Confindustria Cultura e tutto il sistema che gira attorno a questo mondo, perché naturalmente percepisce molti dei milioni che vengono erogati poi dalla SIAE. Mentre Confindustria Digitale parla di provvedimento ingiustificato che non riflette il comportamento dei consumatori e l'evoluzione delle tecnologie. E su questo punto, questo è un punto molto interessante per chi si occupa di tecnologia, perché lo stesso Ministero in una recente ricerca dimostra che oramai sono pochissimi i consumatori che fanno la copia privata, è una roba un po' da anni 90, no? Perché il modo con cui utilizziamo i contenuti è cambiato e sta cambiando, visto che questo provvedimento vale per i prossimi 3 anni, sono sempre di più le persone che consumano la musica magari abbonandosi a un sistema come Deezer o Spotify, e già lì si paga. E come dicono molti esperti, non ha più senso un provvedimento del genere, perché il modo con cui utilizziamo i contenuti si è spostato sull'acquisto digitale e sul noleggio dei contenuti. E quindi i contenuti che io acquisto legalmente, che consumo legalmente, si possono tracciare e si può far pagare puntualmente quello che consumo. Allora, il compenso per copia privata esiste ed è più alto in Germania e Francia, come ha fatto rilevare e sottolinea il Ministero, ma, cosa che non dice il Ministero, non esiste ad esempio in Spagna e in Gran Bretagna, quindi ci sono altri paesi ai quali ci si potrebbe ispirare. Ricordiamo che per settimane abbiamo invitato il ministro Franceschini a confrontarsi, a spiegare le sue intenzioni, non ci ha mai risposto, quindi registriamo questa modalità. E poi, come alcuni fanno rilevare, è abbastanza singolare che il provvedimento, atteso da mesi, sia stato firmato nel venerdì in cui buona parte degli italiani era distratto dalla partita di calcio. Naturalmente leggeremo anche molte reazioni durante questa settimana. Va anche detto che sulla ratio, che è criticabilissima, di questo provvedimento, certo, il ministro non può far nulla, perché si tratta di una legge che prevede il compenso per copia privata. Il ministro poteva e doveva solamente aggiornare questo compenso, ma, come dice la parola stessa, l'aggiornamento non è detto che debba essere fatto al rialzo. Uno prende atto delle modalità e dei cambiamenti tecnologici, e l'aggiornamento poteva essere fatto anche al ribasso. Adesso parliamo di M2M, di machine to machine. Parliamo di machine to machine, che è un mercato in forte espansione, estremamente interessante. Allora, ci sono un paio di notizie che riguardano questo settore. La prima riguarda Vodafone, che ha messo sul piatto 145 milioni di euro per lanciare un'offerta pubblica d'acquisto sulla italiana Cobra Automotive Technologies, che è quotata in borsa. È una società che fa antifurti e sistemi di controllo satellitare per automobili. Questa mossa si inserisce nella strategia di Vodafone di espandere le proprie attività al settore machine to machine, sfruttando quindi la connettività che ha della propria rete internet, la propria rete di telefonia mobile e non solo mobile, per connettere oggetti per monitoraggio e controllo. Facciamo alcuni esempi. Posso connettere ad esempio il distributore di bibite, che quando sta per esaurire il numero di bibite avvisa e poi l'operatore arriva a caricarlo. Tutte le nostre antenne, ad esempio le antenne di Radio 24, sono telecontrollate. Se c'è un problema arriva un SMS ad un tecnico. Insomma, tutte queste cose vanno sotto il capitolo machine to machine, quindi una comunicazione da macchina a macchina, che poi avvisa anche l'uomo, ma diciamo sono le macchine che si connettono tra di loro. Allora, a proposito di machine to machine, questa sera, tempo permettendo, comunque in questo weekend speriamo, un razzo Falcon 9 della società privata SpaceX manderà in orbita 6 satelliti della società Orbcomm, che è specializzata in servizi machine to machine via satellite. Allora, con appositi apparati installati a terra che comunicano con i satelliti, si possono controllare le merci trasportate, lo stato dei veicoli e mille altre cose che richiedono un monitoraggio. Il satellite naturalmente è utile dove non c'è copertura da rete cellulare, ma visto che nella maggior parte del mondo c'è copertura da rete cellulare, la mossa di Vodafone per comprare Cobra Automotive è intelligente. Già oggi Vodafone ha un'offerta machine to machine. Per concludere la notizia che riguarda Orbcomm, a questa società ha già 25 satelliti in orbita bassa che sfruttano appunto questa tecnologia e si avvia a lanciare 17 nuovi satelliti per il network. Adesso ci sono le nostre Digital News. Digital News. Continua l'espansione di Google nel settore del monitoraggio della casa. Attraverso i laboratori Nest, che sono stati acquisiti lo scorso anno, comprerà per 555 milioni di dollari in contanti una società che si chiama Dropcam, che fa controllo remoto della casa tramite webcam. Quindi basta una videocamera collegata ad internet e con abbonamenti che vanno da $99 all'anno, Dropcam registra nel cloud il flusso video e volendo fa anche analisi di quello che succede, quindi ad esempio passa una persona e ti arriva un alert. Ci sono altre società che fanno cose del genere, ma in molti casi serve una centralina installata, un sistema di allarme installato. In questo caso tutto viene fatto via cloud con un sistema di monitoraggio, di analisi delle immagini. Digital News. Microsoft presenterà qualcosa di interessante di nuovo, a secondo l'azienda, il 24 giugno, quindi staremo attenti la prossima settimana, mentre per il mercato italiano è in arrivo a luglio il nuovo top di gamma, cioè il Lumia 930 con Windows Phone 8.1. Questo è uno dei primi smartphone con Windows 8.1. Sempre a luglio, e a proposito di smartphone top di gamma, si segnala l'arrivo di un altro interessante prodotto, cioè il nuovo G3 di LG. Digital News. Segnale di vita da BlackBerry, che ha presentato alcune novità che vedremo dall'autunno. Si punta tutto sulla tastiera fisica. Nel frattempo è stato raggiunto un accordo con Amazon per accedere all'App Store e alle 200.000 applicazioni. Quindi già oggi sul BlackBerry 10 è possibile installare lo store di Amazon e usare le app Android su BlackBerry, ma l'accordo prevede che questo store, questo negozio da cui scaricare le applicazioni, sia caricato di default sugli smartphone. Digital News. L'Unione Europea e la Corea del Sud hanno firmato un accordo di collaborazione per la definizione e la realizzazione delle reti mobili di prossima generazione, ovvero il 5G. La tecnologia dovrebbe cominciare ad essere utilizzata a partire dai primi anni del prossimo decennio, quindi da dopo il 2020. Digital News. La prossima settimana dovrebbe essere reso noto il nome del direttore dell'Agenzia per l'Agenda Digitale Italiana, la AGID. Dopo la chiusura del bando, i candidati sono circa 150. Un'ultima notizia che non è una notizia in breve, è una notizia sicuramente interessante, attesa. Amazon questa settimana ha presentato il proprio smartphone. Allora, è interessante dal punto di vista tecnologico, un po' meno dal punto di vista commerciale per noi italiani, perché al momento il Fire Phone, così si chiama questo nuovo smartphone, è previsto in uscita solo negli Stati Uniti, con un piano di AT&T che costa $199 nella versione da 32 giga. Ci sono anche 12 mesi di Prime incluso, ma insomma questo è poco importante. Il telefono costerebbe $650 senza il piano di AT&T. La cosa interessante del Fire Phone, forse la caratteristica più interessante, è un servizio che si chiama Firefly, significherebbe lucciola. Permette il riconoscimento via fotocamera, ma anche attraverso non solo l'immagine, ma anche attraverso QR code, codici a barre, indirizzi web, numeri di telefono, eccetera eccetera, di milioni di oggetti, permettendone poi l'acquisto. Naturalmente, come tutti i prodotti hardware, i tablet, i Kindle di Amazon, questo strumento è fortemente integrato con tutti i servizi del negozio elettronico, quindi in questo caso si inquadra un prodotto, il prodotto viene riconosciuto e lo si può acquistare direttamente dal negozio. Vedremo poi quali sarà la funzionalità e quando questo smartphone arriverà anche in altri paesi, in modo particolare nei paesi europei. Non c'è stata una accoglienza molto calorosa, ci sono stati alcuni sondaggi negli Stati Uniti. Alla domanda "comprereste un Fire Phone?", beh, molti hanno risposto no, perché non è che sia bellissimo sto telefono e questa caratteristica del riconoscimento non è che mi fa impazzire. Però vedremo poi come si comporterà sul mercato nei prossimi mesi. Questa è Radio 24, siete all'ascolto di 2024, tra poco parleremo di Deep Web, parleremo anche di pagamenti elettronici e del mercato della pubblicità in Italia, perché c'è una notizia molto interessante, a tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Una delle monete che spinge la rivoluzione digitale, molti dei contenuti che noi utilizziamo sulla rete internet sono spinti e pagati dalla pubblicità. Quindi la pubblicità rimane in questo mondo digitale un elemento e un ecosistema molto importante, molto interessante. Allora, sappiamo che la pubblicità su internet o sui mezzi digitali in genere cresce sempre di più. C'è una notizia di questa settimana che è stata diffusa e pubblicata dagli osservatori che si occupano di innovazione digitale della School of Management del Politecnico di Milano. Allora, partiamo proprio da questa notizia che riguarda la pubblicità e in modo particolare la pubblicità digitale. Il professor Andrea Rangone è il coordinatore degli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Direi che il dato più eclatante è che finalmente nel 2013 c'è stato il sorpasso della pubblicità su internet rispetto alla pubblicità su carta stampata, quindi sui giornali. Nel 2012 ancora la pubblicità su carta era superiore a quella su internet, nel 2013 questo sorpasso c'è stato ed era anche abbastanza netto, perché a questo punto la pubblicità su internet arriva ad un valore di 1,8 miliardi di euro contro la pubblicità sui giornali di 1,4 miliardi di euro circa. Quando parliamo di pubblicità digitale parliamo di che cosa nello specifico? Solo internet, mobile o anche altri canali? Allora, è la pubblicità su internet, però effettivamente su tutte quei canali che ormai siamo abituati ad utilizzare, quindi non è solo il classico internet, la pubblicità banneristica, il display da personal computer, anzi in realtà questa componente è proprio la componente, se vogliamo, più statica. La componente che sta crescendo di più è quella relativa in particolare a tutti i terminali mobili, smartphone, ma anche tablet, che stanno crescendo tantissimo, e la componente social, quindi la componente di pubblicità che riguarda tutti i social network, e direi in particolare fra questi Facebook ancora oggi gioca ancora un ruolo importante. Ecco, quindi la pubblicità internet include anche tutte queste componenti, che sono proprio quelle che hanno spinto questa crescita incredibile nel 2013. Giusto per darvi un dato, stiamo parlando di un tasso di crescita del 73%. Sì, quando parliamo di pubblicità digitale, una cosa che spesso dicono gli addetti ai lavori è che alcuni comparti sono difficili da misurare, perché i grandi player internazionali, Facebook e Google in primis, soggetti che nel mondo analogico non esistevano, erano quasi tutti prevalentemente nazionali e facilmente misurabili. Questi soggetti non comunicano i dati paese per paese, comunicano solo a livello internazionale e globale. Quanto possiamo essere precisi su questa misurazione? Questo è assolutamente vero e questo è un problema per noi ricercatori, analisti, assolutamente non da poco. Ed è anche uno dei motivi per cui nei dati precedenti sulla pubblicità in Italia i valori che si stimavano erano sottostimati, quindi ben inferiore a quelli che invece noi abbiamo comunicato questa settimana, proprio perché non tenevano conto in maniera molto molto parziale di queste componenti di pubblicità derivanti dai grandi player mondiali che non rilasciano informazioni. Noi come osservatori facciamo questo lavoro di misura dei mercati digitali ormai da 15 anni, parlo da appunto uno dei coordinatori di questa macchina di ricerca, e abbiamo capito non solo per questo specifico mercato, ma anche per tanti altri, l'abbiamo capito oltretutto nel tempo, che invece è fondamentale quando si parla di digitale mettere a punto metodologie che sono in grado di misurare bene i mercati al di là del dato esplicitamente fornito dall'operatore, perché in realtà in tanti altri mercati questo ci accade, anche ad esempio nella misura dell'e-commerce. Ecco. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è, anche ove l'operatore non ci fornisca il dato, abbiamo un insieme di strumenti metodologici, che oltretutto incrociati fra di loro, che cercano di arrivare ad una stima ragionevolmente corretta del valore. Parlo di ragionamento corretta perché non ci metto certo la mano sul fuoco della precisione, ma sicuramente l'ordine di grandezza dei fenomeni, ormai abbiamo imparato, lo riusciamo a cogliere. Dalla pubblicità digitale parliamo di pagamenti digitali, anche questo è un trend estremamente interessante. Cerchiamo sempre di seguire le novità, gli annunci, le innovazioni in questo settore. Allora, dal prossimo lunedì Banca Mediolanum, e sarà la prima banca italiana, lancerà un sistema di pagamento tramite NFC, tecnologia NFC. Abbiamo parlato spesso di sperimentazioni che ci sono state negli ultimi anni anche in Italia. Devo dire che da questo punto di vista non siamo in ritardo rispetto ad altri paesi, perché i sistemi di pagamento tramite NFC stanno partendo un po' in tutto il mondo. Vedremo se fra qualche mese o fra qualche anno saranno stati un successo. Comunque, tuttavia, è una buona notizia che ci siano anche le banche che entrano all'interno di questo ecosistema piuttosto complicato, perché c'è da una parte l'operatore telefonico, dove la carta di credito deve essere virtualizzata, la banca, chi emette la carta di credito, insomma il sistema è piuttosto complesso. Saluto Massimo Doris, che è l'amministratore delegato di Banca Mediolanum. Benvenuto, grazie per essere con noi. Salve a tutti. Voi lanciate questo nuovo servizio in collaborazione con CartaSì. Detto in estrema sintesi, come funziona e quali sono i tasselli fondamentali che il vostro cliente dovrà avere? Noi lanciamo, appunto, come ha detto lei, lunedì questo servizio. In pratica si tratta di virtualizzare la carta di credito nel telefonino, perché la carta di credito non è altro che una serie di dati contenuta in quel chip che vediamo nel pezzo di plastica. Ora, quel chip è lo stesso chip usato dalle SIM card dei telefoni. Allora, se io trasferisco i dati della carta nella SIM card del telefono, ecco che il telefono mi diventa carta di credito. E se il telefono ha la tecnologia NFC, e ormai tutti gli smartphone di nuova generazione escono con questa tecnologia, a parte Apple, ma da quello che so l'85% dei telefoni in circolazione usa Android e non Apple, quindi l'85% dei nuovi telefoni emessi ha questa tecnologia, ci vuole una SIM card con questa abilitata questa tecnologia, ma qui basta andare al punto vendita di TIM e tra poco anche di Vodafone, perché partiamo con TIM lunedì, e farsi sostituire la carta senza alcun costo per l'utente. Ed ecco, e poi si virtualizza, ci sono delle operazioni da fare molto semplici, molto banali, per virtualizzare la carta. Ed ecco che per effettuare il pagamento basterà avvicinare, scegliere in un'applicazione con quale carta pagare, avvicinare il telefono al POS, e a quel punto viene effettuato il pagamento. Senti, in questa fase naturalmente i servizi, voi siete la prima banca che parte, i servizi sono ancora pochi. Possiamo immaginare che fra qualche mese uno potrà avere una carta di credito virtualizzata sullo smartphone, indipendentemente ad esempio dall'operatore telefonico, indipendentemente dall'emettitore di carta di credito, cioè potrà avere Mastercard o anche un altro tipo di circuito. Sarà così o ci saranno ancora dei vincoli? No, guardi, sarà così. Difatti noi partiamo adesso con TIM, però già ad agosto si aprirà Vodafone e partiamo con una carta prepagata. Dopodiché entro l'autunno sarà possibile virtualizzare anche le carte di debito, e poi nei primi mesi dell'anno prossimo tutte le carte di credito. So per certo che altre banche stanno lavorando in questa direzione, per cui secondo me nel giro di un anno i principali player saranno presenti nel mercato di pagamenti con questa nuova tecnologia. per vedere questi primi servizi ci abbiamo impiegato molto tempo, perché effettivamente le sperimentazioni sono andate avanti per molti mesi, direi più mesi rispetto al previsto. Il problema dal suo punto di vista è un problema organizzativo, perché i vari soggetti da mettere d'accordo sono tanti, o pensa che ci sia anche un po' di lentezza nell'approccio da parte dei consumatori, quindi non tutti sono sicuri che poi i consumatori utilizzeranno questi servizi, perché c'è chi dice che alcuni consumatori sono un po' resti a affidare allo smartphone anche il sistema dei pagamenti? Guarda, la lentezza è dovuta principalmente al fatto che il sistema era un po' complesso da mettere a punto, perché da un punto di vista di usabilità del cliente è estremamente semplice, ma quello che sta dietro era un po' complesso, perché c'è di mezzo l'operatore telefonico, c'è la banca, c'è l'emittente della carta, c'è il circuito della carta e c'è SIA. Sono 5 operatori, nel nostro caso 5 entità diverse, tra le quali bisogna farsi funzionare tutto il sistema. Quindi, e siccome si tratta di pagamenti, dovevamo uscire con un sistema stabile e che funzionasse. Però, ripeto, per il cliente è molto semplice. Poi, dal punto di vista se verrà utilizzato o no, il mio parere è che in Italia verrà molto utilizzato. Noi italiani usiamo tantissimo il telefonino. Un italiano su due ha 2 SIM, di conseguenza 2 telefonini invece di uno, quindi un numero assolutamente elevato. Poi pensiamo anche, ci sono questi dati, il telefono, lo chiamiamo così, ma in realtà non è più così, viene utilizzato per telefonare per il 20% del tempo. L'80% del tempo è usato per mandare SMS, per usare le applicazioni, navigare su internet, giocare, fare foto, eccetera, eccetera. Da lunedì inizierà anche a fare un'altra funzione, cioè quella della carta di credito, quindi quello di strumento di pagamento. Quindi lei è ottimista da questo punto di vista. Mi fa piacere, perché anch'io sono ottimista, io uso già un sistema NFC con carta di credito, quindi penso che possa essere molto comodo. Costerà qualche cosa al consumatore virtualizzare la carta? No, assolutamente nulla, lo stesso costo di una carta di credito normale di plastica, con tra l'altro dei vantaggi, perché pensiamo al fatto, per chi ha più carte di credito, di non doversi più portare in futuro nel portafogli tutti quei pezzi di plastica, e quindi avere un portafogli un po' più leggero, perché saranno tutte virtualizzate nel telefono. I vantaggi di quando una carta scade, perché cosa accade oggi? 20 giorni prima della scadenza arriva la carta di credito a casa, uno che fa? La mette nel cassetto e dice: quando arriverà la scadenza la sostituirò nel portafogli. Poi regolarmente o quasi ci si dimentica di farlo e ci si trova in giro con la carta scaduta. Domani, siccome la carta è virtualizzata, il rinnovo sarà un invio di dati telematico e mi ritrovo con la carta rinnovata, piuttosto che se devo bloccarla per qualsiasi motivo, una clonazione, e mi trovo anche all'estero, oggi sarei in difficoltà perché dovrei attendere in qualche modo la spedizione di un pezzo di plastica della carta di credito, un domani sarà un invio telematico di nuovo, in qualsiasi parte del mondo io mi trovi avrò la mia carta. Le faccio una domanda su un altro servizio che voi avete lanciato, che avevo visto proporre da una startup americana qualche mese fa. Questo non è quello della startup, ma diciamo il funzionamento è simile e mi sembra molto interessante, ci dà un po' l'idea di come saranno altri sistemi di pagamento nei prossimi anni. Voi avete lanciato un sistema che si chiama Send Money, che permette di trasferire denaro ad un indirizzo email di posta elettronica, cioè di fatto io è come che mandassi un'email. Corretto, abbiamo sviluppato questo servizio in collaborazione con PayPal, per cui il nostro cliente, invece di fare un bonifico tradizionale con IBAN eccetera, semplicemente inserisce l'email del destinatario e così avviene il trasferimento di denaro. L'abbiamo lanciato l'anno scorso e abbiamo circa 2.000 transazioni al mese. Su 2.000, pensi, 1.600 vengono fatte attraverso cellulare, attraverso telefonino telefonino, per dire come l'uso del telefonino stia diventando sempre più importante. E sempre a proposito dell'uso del telefonino, nel caso di Banca Mediolanum, abbiamo confrontato i dati di maggio dello scorso anno con i dati di maggio di quest'anno dell'accesso alla banca. Ebbene, l'anno scorso a maggio solo il 15% degli accessi veniva effettuato tramite smartphone, quindi tramite l'applicazione. A marzo di quest'anno siamo al 25%, ben 10 punti in più in un solo anno. Secondo me nel giro di breve supererà internet, ci saranno più accessi tramite mobile che non attraverso il classico sito. Bene, la ringrazio Doris per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie e un arrivederci a tutti. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco parleremo del Deep Web. Vi aspettiamo. 2024. Riprendiamo questa puntata, io sono Enrico Paglierini, grazie come sempre ad Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica se volete raggiungerci è 2024@radio24.it. Adesso parliamo di quello che viene definito il lato oscuro della rete internet, una parte della rete internet che non viene frequentata dalle persone, tra virgolette, normali, che viene chiamato in gergo Deep Web. Carola Frediani, che è una giornalista che si occupa di tecnologia, ha fatto un lungo viaggio, una lunga navigazione in questa parte della rete internet in parecchi mesi e ha scritto un libro che si intitola Deep Web, la rete oltre Google, cioè quello che noi cercando sui motori di ricerca di sicuro non riusciamo a trovare, quindi non riusciamo poi a vedere, a frequentare. Carola, benvenuta a 2024. Buongiorno, ciao. Ti faccio subito la domanda per chiarire di che cosa stiamo parlando. Che cos'è questo Deep Web, questo tradotto web profondo, il lato oscuro della rete internet? Sì, il Deep Web è in realtà è quella parte della rete che semplicemente non è accessibile attraverso i normali motori di ricerca come Google, perché non è indicizzata dai motori di ricerca, ed è una parte molto ampia, molto vasta, che comprende anche database, internet, anche di siti importanti come, non so, quello della NASA. Nella sezione giornalistica con Deep Web si intende però una sezione di questa parte che è composta soprattutto dalle darknet, cioè da reti anonime, cioè da reti in cui i navigatori, gli utenti si muovono in modo anonimo e in cui i gestori dei siti, gli siti stessi in qualche modo sono anonimi. Quindi un luogo molto diverso dalla rete cosiddetta in chiaro in cui siamo abituati a muoverci di solito. Che cosa ci si trova dentro questo Deep Web? Ci si trova di tutto, essendo appunto costruito su queste reti che puntano molto sull'anonimato, naturalmente ci si trovano persone che hanno interesse a difendere la propria privacy o la propria identità, quindi assolutamente attivisti o dissidenti di paesi di regimi non democratici, giornalisti e fonti di giornalisti interessati a comunicare su questioni spinose. Chiunque cerchi uno spazio di libertà di espressione che, e di comunicazione che in qualche modo gli è negato o comunque si sente in qualche modo negato, e poi chiaramente essendo un luogo anonimo, libero e così via, ci sono anche spazi per attività criminali. Tu per scrivere questo libro che tipo di ricerche hai fatto? Cioè sei andata un po' come un giornalista che va in alcuni luoghi di una città, magari non frequentati dal grande pubblico, ma solo da personaggi discutibili, da criminalità, eccetera, eccetera. Questo lo capiamo abbastanza bene. Ecco, nel Deep Web come hai fatto e che cosa hai fatto per entrare in contatto con questo mondo? Beh, io mi occupavo già da tempo di attivismo, infatti è una parte, è anche, diciamo, parlo di attivismo anche in deep web, e quindi avevo già una certa familiarità con un certo tipo di canali di comunicazione che si usano in questi posti, in un certo tipo, tra virgolette, di ambienti virtuali. E quindi ho semplicemente allargato il più possibile i miei giri, cercando di frequentare, di muovermi in siti, forum, chat, che potevano essere interessanti. E poi devo dire, soprattutto in questi ambienti conta molto il passaparola, cioè si comincia a conversare, a parlare con qualcuno, escono fuori delle informazioni, delle indicazioni, e poi si prosegue in questa maniera molto, diciamo, old style anche giornalisticamente, e quindi alla fine si tratta di parlare il più possibile con utenti, persone incontrate online, e di procedere in questo modo. Poi chiaramente nel deep ci sono anche delle indicazioni, ci sono luoghi che raccolgono appunto delle directory di link, di siti, ci sono forum con indicazioni molto specifiche, e si tratta di passarci molto tempo come un giornalista nel mondo reale che perlustri il più possibile un luogo, un ambiente, una situazione, stando il più possibile lì a contatto però con quell'ambiente. Sì, ricordiamo che l'attivismo ha una radice che deriva da hacker e si fonde con l'attivismo, quindi è una sorta di attivista digitale che utilizza anche questi canali per poi apparire sulla rete tradizionale per portare all'attenzione del grande pubblico campagne di qualsiasi genere, per parlare di temi di cui magari è più difficile parlare nei canali classici di informazione e di discussione. Per entrare nel deep web, tecnicamente si usa un browser come quelli a cui siamo abituati tutti i giorni, magari digitando siti internet particolari, o bisogna utilizzare software strani o particolari? Sì, bisogna utilizzare dei software particolari. Il più noto, è quello che permette di accedere a buona parte del deep o delle darknet, è Tor, chiaramente, che è, come dire, Tor è sia appunto una rete di computer che costruisce appunto delle reti anonime, che sia un software che si può scaricare sul proprio computer. In particolare, per semplicemente navigare questi siti, si può già scaricare di fatto un browser, quindi è abbastanza semplice, si scarica il Tor Browser Bundle, si chiama, che è un browser fondamentalmente basato su Firefox, che però permette di muoversi, di accedere ai siti del cosiddetto deep web. Naturalmente poi bisogna avere anche gli indirizzi giusti, che sono degli indirizzi particolari che terminano in onion. Infatti spesso si parla di questo mondo come il mondo, un mondo appunto onion, significa appunto cipolla, si riferisce agli strati di crittografia che proteggono il traffico e le comunicazioni sulle reti Tor. Visto che all'interno del deep web non ci sono solo gli attivisti, e quindi non si discute solo in alcuni casi in maniera assolutamente non illegale, c'è però una buona parte di mondo illegale, cioè traffico di droga, di armi, cose insomma di questo genere, oppure anche malicious hacker che si mettono d'accordo per bucare una rete, eccetera eccetera. Ecco, questo mondo è ben conosciuto dalle polizie del mondo, o con difficoltà la polizia riesce ad entrare in contatto con il deep web? Ma io penso che anche da una serie di ultime inchieste che ci sono state mi sembra evidente che sia un mondo anche molto infiltrato e perlustrato da forze dell'ordine, polizie e servizi segreti. Tant'è vero che lo scorso ottobre l'FBI ha sequestrato uno dei più importanti mercati neri che stavano nel deep web, che era Silk Road, attraverso un'indagine lunga, complessa, fatta di ricerche, indagini, infiltrati, cioè veramente un caso studio da quel punto di vista lì. Quindi sì, c'è sicuramente in realtà attenzione verso questo mondo. Io prima dicevo, non so quanto grande sia questo deep web, quindi noi quasi tutti i mesi abbiamo dati che ci misurano la rete internet, quindi i navigatori del World Wide Web, del WWW. In questo caso esistono strumenti o dati che possono farci capire le dimensioni del deep web, o è difficile per sua stessa natura, essendo appunto una rete nascosta dove si fanno cose spesso illecite, è bene essere poco rintracciabili? No, esattamente come dici tu, è molto difficile quantificarlo per la sua natura, proprio perché molti siti non ci tengono a essere trovati o a essere indicizzati e non linkano fra di loro, e non c'è un vero e proprio motore di ricerca che funzioni come possiamo immaginarci, come sappiamo che funzionano i motori di ricerca del web in chiaro. Quindi ci sono degli studi che hanno provato a rintracciare una serie di siti del deep e in qualche modo ad analizzarne i contenuti, le parole chiave, eccetera, però in termini numerici noi non abbiamo dei numeri assoluti su questo ambiente. Senti, le cose più strane e anche magari più divertenti, non so se ne hai incontrate di divertenti, o quelle più raccapriccianti, pericolose che hai incontrato in questo, adesso io lo chiamo viaggio, naturalmente si tratta di sessioni di navigazione fatte nel corso di mesi e mesi e mesi di lavoro. Ma si trova veramente di tutto, cioè, quello che ho notato è che non si trova semplicemente appunto il cybercriminale piuttosto che solo l'attivista puro, ma si trovano anche tante figure miste, intermedie o comunque curiosi o persone che sono lì per imparare delle cose. Ecco, sicuramente è molto diffusa questa idea del condividere delle informazioni, conoscenze, è una specie di humus diffuso e trasversale in qualche modo, e quindi no, sicuramente ho trovato sì una persona che al di là di chi magari vende droga online, c'è quello che per arrotondare fa i biscotti alla marijuana e poi li spedisce in tutto il mondo impacchettati e li vende in un forum del deep web, piuttosto che quello che invece cerca prodotti contraffatti di marca. Oppure l'esperto di security che però appunto già che c'è vende anche qualche malware o qualche software un po' così, sotto banco in quel mondo, cioè è fatto di tante zone grigie, non so come dire, di tante sfumature. Sì. E poi si trova però anche il programmatore o quell'esperto di crittografia che lavora su dei software quindi che sperimenta nuove soluzioni per la difesa della privacy, quindi e magari queste persone si incrociano anche in certi forum, in certe chat. Appunto non ci sono delle divisioni nette, è un po' come un bar dove entra un po' di tutto, è una specie di veramente di bazar da quel punto di vista. Sì, come il bar di Guerre Stellari, potremmo dire. Esatto, mi era venuto in mente anche in effetti. Senti, come si paga? Ma chiaramente si usano per lo più delle criptovalute, quindi la più famosa di tutte, la più usata sicuramente Bitcoin, che però ci tengo a ricordarlo è una moneta elettronica che in realtà ha degli utilizzi del tutto legali e alla luce del sole, quindi non è legata semplicemente al deep web o a traffici illegali, però chiaramente queste monete elettroniche hanno, diciamo, presentano dei vantaggi per chi si muove in questo ambiente, perché se usate in una certa maniera garantiscono un buon livello di anonimato e di fluidità anche delle transazioni. Quindi fondamentalmente si usano le criptomonete, ora non c'è solo più Bitcoin, ce ne sono anche molte altre che cominciano a essere scambiate, anche se chiaramente la più diffusa e diciamo la più solida è quella. Quindi non si va con la carta di credito normale? No, le carte di credito, i dati delle carte di credito vengono commerciati ampiamente nel deep web, quella è una pratica molto diffusa, tra l'altro. Per fare frodi, quindi. Sì, ma in realtà molte, ecco, una cosa, altra cosa, molte di queste attività poi spesso non sono solo presenti nel deep web, sono presenti anche in, su internet, nei siti più, cioè, abbastanza accessibili, solo che è comunque difficile perseguire diciamo chi gestisce questi siti. Cioè, ci sono dei siti che si scambiano dati su carte di credito che sono in chiaro, che non sono nel DIP. Sì. Per cui, ecco, in realtà, appunto, non bisogna neanche troppo distinguere. Molte di queste stesse attività a volte si ritrovano anche in chiaro, sono comunque difficili da raggiungere. Il DIP semplicemente aggiunge degli strati di protezione e soprattutto a livello di comunicazione, di scambio di informazioni, di comunicazione fra le persone. Bene, Carola, noi ti ringraziamo per questo racconto che ci hai fatto, di questo racconto che è diventato un libro che immagino si trovi anche nelle librerie digitali, giusto? Sì, Deep Web, la rete oltre Google, si trova ovviamente sul sito degli editori, che sono Quinta di Copertina, ma soprattutto anche a partire da domani anche negli soliti store, quindi da Amazon agli altri, ecco. Bene, quindi noi ti ringraziamo e, come si dice in questi casi, visto che tu continuerai a navigare e a frequentare questi ambienti, insomma, per capire, magari scrivere ulteriori cose, stai attenta. Sì, cercherò di stare attenta. Bene, grazie, a presto, buon lavoro. Va bene, grazie a voi, ciao. Adesso per noi c'è una breve pausa, riprendiamo tra un minuto. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Chiudiamo con lo spazio. Pensiamo che, a proposito di tecnologia, le tecnologie che vengono studiate per andare nello spazio e le tecnologie che vengono studiate nello spazio siano estremamente importanti per cambiare la vita, per cambiare il lavoro, per modificare in positivo la scienza in molti ambiti e in molti campi. Allora, questa settimana è stata presentata la missione Futura, che dal 23 novembre rinnoverà l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Ci sarà anche Samantha Cristoforetti, che è l'unica astronauta donna italiana, l'unica astronauta donna tra i nuovi astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Abbiamo parlato di questa missione partendo dagli ingredienti fondamentali, cioè gli esperimenti che verranno effettuati durante questi 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Samantha Cristoforetti. Sì, si tratta di una cosiddetta missione di lunga durata su questo, io lo chiamo l'avamposto dell'umanità nello spazio, in realtà è un grande laboratorio dove si fa principalmente ricerca scientifica, più tutta la serie di attività che servono per mantenere in funzionamento questo avamposto nello spazio. E quindi dal punto di vista scientifico la cosa bella, di cui io sono molto orgogliosa, è il fatto che durante questa missione svolgerò, oltre a tutta una serie di esperimenti delle varie agenzie spaziali coinvolte nel programma, tutta una serie di esperimenti della comunità scientifica italiana, grazie ad un bando ad hoc che è stato fatto dall'Agenzia Spaziale Italiana, a cui i nostri scienziati hanno ben risposto. E quindi farò una serie di esperimenti delle nostre università, dei nostri istituti di ricerca, molto incentrati, devo dire, sulla fisiologia umana e la medicina, quindi aspetti molto vari, dalla neurologia, le strategie di equilibrio in microgravità, di adattamento del coordinamento psicomotorio, l'osso, quindi i problemi del riassorbimento dell'osso, quindi anche legato a tutti i problemi poi a terra di osteoporosi, aspetti vascolari, in particolare i problemi di ritorno venoso dal cranio, dalla testa, anche questo legato poi a patologie a terra, problemi del sonno. E poi ci sono anche degli interessanti dimostratori di tecnologia, da una stampante 3D, che è una tecnologia che ormai è consolidata a terra, però si vuole iniziare a validarla, a testarla e validarla per l'ambiente spaziale, perché potrebbe essere veramente un game changer per l'esplorazione, la possibilità per esempio di stampare pezzi di ricambio e quindi ovviando la necessità di avere uno stock o comunque di dover inviare con tutte le difficoltà di catena logistica, pezzi di ricambio. E poi addirittura ci sarà una macchina del caffè espresso, chiaramente è una cosa che può sembrare di costume, sicuramente c'è anche un elemento di costume, però anche lì dentro c'è un forte contenuto tecnologico, perché ci sono tutti gli aspetti termici e idraulici che non sono così ovvi quando si lavora in assenza di peso. È la prima volta che c'è una macchina da caffè nello spazio? Beh, diciamo che fino adesso eravamo limitati al caffè solubile, quindi le classiche bustine con dentro la polverina di caffè solubile che poi vengono in cui poi si immette l'acqua calda. E, ecco, quello era è tuttora il caffè nello spazio, quindi la possibilità di provare a vedere se si riesce ad avere un buon caffè espresso sarebbe decisamente un salto di qualità. Però ripeto, è anche una macchina con un forte contenuto tecnologico. Sì. Ti faccio una domanda su Twitter, che per molti astronauti, forse tutti gli astronauti, oramai è diventato un modo per comunicare molto, molto efficace. Lo utilizzerai anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi c'è internet sulla Stazione Spaziale? Sì, c'è internet sulla Stazione Spaziale Internazionale, non è velocissimo, però sicuramente c'è la possibilità di interagire tramite social media, e quindi, come faccio del resto ormai da diversi anni, continuerò ad essere, diciamo, presente sui social media, da Google Plus a Twitter, senz'altro. Allora, in bocca al lupo e buon viaggio a Samantha Cristoforetti, che nei prossimi mesi continuerà l'addestramento fino al 23 novembre, quando partirà su una Soyuz per la Stazione Spaziale Internazionale. Se volete seguire la sua missione, già da questo momento è stato presentato e attivato un sito internet che si trova scrivendo avamposto42.esa.int. ESA.int è il sito internet dell'Agenzia Spaziale Europea, Avamposto 42 è il sito dedicato non solo a questa missione, ma anche a molti temi legati alla nutrizione e alla salute. Concludiamo dando una occhiata ai temi che ci saranno domani su Nova, il Sole 24 Ore, in edicola con il Sole 24 Ore. Luca Tremolada, bentornato. Buongiorno, tu non ti sbagli mai, Sole 24 Ore, Nova, ci troviamo domani? No, bravissimo. Perché ormai perfetto. L'ho imparato a memoria, soprattutto infatti, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore. È fenomeno, pazzesco. Dunque, che cosa ci racconti? Allora, che cosa avete individuato come temi di questa settimana? Troppo gentile, noi domani cercheremo di stupirvi con i batteri in cover, per cui il titolo è "I batteri vi salveranno", l'ho detto, non volevo dirlo, sì, ma lo dico. Poi una doppia pagina dove andiamo a capire le novità sull'e-commerce, per sì, cui c'è l'utente, ci sono un sacco di cose nuove che stanno accadendo in Italia, per cui non siamo più il fanalino, insomma, le cose che ci si raccontava, che abbiamo paura della carta di credito, ecco, qualcosa è si cambiato. Sta muovendo, sì. E poi abbiamo un pezzo interessante di Alessio Lana, l'abbiamo mandato in Giappone a capire cosa sta succedendo al mondo delle stampanti. Tu mi dirai, ma perché il mondo delle stampanti? Ma perché fini in Giappone? Ma perché? Perché in Giappone ha visto qualcosa di Epson interessante, e perché fondamentalmente quello che sembra il mondo finito, no? Uno dice la stampante è finita, sì, è tutto digitale, no? Invece no, stanno inventando cose nuove, stranissime, innovative e creative, e noi siamo andati a vederle tutte. Bene, Luca, grazie, a presto. Grazie a tutti. E così concludiamo questa puntata di 2024. Questa è la versione podcast del nostro programma. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Potete contattarci tramite le nostre coordinate, ovvero scrivendoci una email, 2024@radio24.it, usando la nostra pagina su Facebook e anche Twitter, @ o l'account di 2024, quindi 2024_R24, oppure @Pagliarini. È tutto, grazie anche ad Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. Ci risentiamo fra 7 giorni in podcast, oppure il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15 e le 16. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.